Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. È sempre la Grecia a dominare la scena finanziaria internazionale. Sono giornate cruciali per il nuovo governo di Atene, che ha ottenuto nella notte tra martedì e mercoledì la fiducia del Parlamento. Il voto è un preludio al lancio di un nuovo piano di austerità dopo la nomina del ministro delle finanze Evangelos Venizelos. Ricordiamo che nei giorni scorsi è slittata la decisione sull'erogazione della quinta tranche di prestiti alla Grecia da parte di Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale. L'Eurogruppo, dopo ben 7 ore di riunione, ha deciso che solo l'approvazione da parte del Parlamento greco delle nuove misure per il risanamento delle finanze e del piano di privatizzazioni spianeranno la strada per il prossimo esborso entro la metà di luglio. La quinta tranche di prestiti è pari a 12 miliardi di euro. Sentiamo il commento di Adriana Cerretelli, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Io penso che Juncker si riferisse, cioè stesse polemizzando con i tedeschi e mettendosi dalla parte della Banca Centrale Europea a proposito del coinvolgimento obbligatorio dei privati nel salvataggio della Grecia. Questo è un punto sul quale da sempre la Banca Centrale Europea, come Juncker, sono convinti che un eventuale coinvolgimento dei privati creerebbe un effetto domino devastante e potrebbe finire per travolgere tutti. In particolare, uno degli argomenti su cui Juncker batte sempre è quello di evitare il fallimento della Grecia, perché il fallimento potrebbe avere, provocare un'onda psicologica tale da coinvolgere l'intera Eurozona, quindi lambire l'Italia e il Belgio, ma andare addirittura anche oltre, secondo molti. Oggi ha gettato acqua sul fuoco, giustamente, perché ha ripetuto l'Italia non è in pericolo, come non è in pericolo. Tra l'altro, io circa un mese fa avevo avuto occasione di parlare con un membro del board della Bundesbank, il quale mi aveva proprio escluso che in questo momento persino la Bundesbank, che è tradizionalmente è sempre stata contro l'ingresso della banca centrale tedesca, certo. Certo, dei paesi del Mediterraneo, in particolare l'Italia, che è il più pericoloso in quanto l'economia più grossa, pure in quell'occasione, con mio sommo stupore e piacevole stupore, alla Bundesbank avevano totalmente escluso che in questo momento si potesse parlare di un rischio Italia. Detto ciò, l'instabilità e il nervosismo sui mercati è tale per cui, appunto, quello che dicevo prima, meglio tacere perché può volare una mosca e creare veramente una destabilizzazione, anche perché i mercati hanno interesse a speculare, certo, e a provocare una situazione che crei loro margini di guadagni. Soddisfatto il presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, secondo il quale il voto di fiducia al governo greco di Papandreou rappresenta una buona notizia per la Grecia e per l'Unione europea e rimuove un elemento di incertezza in una situazione già molto difficile. Barroso ha esortato Papandreou e il suo governo a concentrare gli sforzi per ottenere l'appoggio del Parlamento ora all'ambizioso pacchetto di misure fiscali e di privatizzazioni preso in accordo con la Troica, ovvero Fondo Monetario Internazionale, Commissione Europea e Banca Centrale Europea. L'approvazione di queste misure la prossima settimana sarà dunque il momento della verità. Sentiamo il presidente della Commissione Europea Barroso. Next week is the moment of truth where Greece needs to demonstrate. La prossima settimana rappresenta il momento della verità in cui la Grecia deve dimostrare il proprio impegno circa l'ambizioso pacchetto di misure fiscali e di privatizzazione messo a punto dal governo Papandreou, in accordo con l'Unione Europea e il Fondo Monetario Internazionale. Il mio messaggio è chiaro: se Atene agisce, l'Europa aiuterà. Esiste un piano e invito tutti ad agire sulla base di quel piano. Penso sia meglio agire piuttosto che parlare. Credo che siamo in un periodo in cui è necessario un uso strategico del nostro sistema di fondi ed è importante dimostrare ai nostri amici greci che il cammino verso l'uscita è sì difficile, ma c'è speranza. Ecco perché vorrei chiedere al Consiglio europeo di discutere di ciò che possiamo fare per aiutare la Grecia, al di là degli sforzi di consolidamento di bilancio, perché possa aumentare la competitività e creare posti di lavoro. La Grecia ha il potenziale per accedere a ingenti fondi europei che dovrebbero concentrarsi dove c'è maggiore necessità, ossia per aumentare la competitività e l'occupazione. Dobbiamo coordinare questi fondi in modo che abbiano un forte impatto e trovare il modo per accelerarli per far sì che la Grecia ne abbia beneficio ora. We should find ways to accelerate them so that Greece gets the benefit now. La sostenibilità del debito pubblico greco dunque può essere garantita solo attuando il programma di risanamento dei conti e il piano di privatizzazioni. A ribadire il concetto è stato anche il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker. Sentiamo. J'estime que le peuple grec doit prendre sur eux des sacrifici. Penso che il popolo greco rischi di prendere sulle proprie spalle dei sacrifici enormi. Stiamo assistendo a una sorta di squilibrio sociale, dove i più deboli rischiano di pagare un prezzo sproporzionato. Non va sottostimato questo tipo di fattore di contagio che rischia di propagarsi a livello sociale e a cui dobbiamo dare risposta. Non c'è altra opzione che quella del consolidamento delle finanze pubbliche, non solo in Grecia, ma anche negli altri paesi più deboli. È chiaro che il popolo greco, per poter respirare, ha bisogno di sperare. E noi dobbiamo contribuire a definire una politica di crescita che sia in aiuto alla Grecia e alle ambizioni personali dei suoi cittadini. Una volta finita l'urgenza, dobbiamo anche prevedere una politica che stimoli la crescita nei paesi più deboli e quindi anche in Grecia. Penso che il governo greco faccia il suo lavoro con grande coraggio, così come il popolo greco sta dando prova di un coraggio straordinario. Il default di Atene avrebbe conseguenze catastrofiche per la moneta unica europea. Il fallimento della Grecia potrebbe infatti contagiare il Portogallo e l'Irlanda e, a causa del loro elevato debito pubblico, anche il Belgio e l'Italia, prima della Spagna, ha spiegato sempre il presidente dell'Eurogruppo Juncker. Tuttavia l'Italia non dovrebbe essere in pericolo. Sentiamolo. Recentemente ho messo in guardia dagli effetti di un possibile contagio derivanti da decisioni sbagliate che potrebbero scatenare reazioni irrazionali da parte dei mercati. In particolare l'oggetto del discorso riguardava il coinvolgimento del settore privato. Al di là di questo, credo che alla fine di questa crisi l'Europa ne uscirà rafforzata, sempre che impari la lezione. La risposta non è meno Europa, ma più Europa. La risposta dovrà essere l'uso del metodo intergovernativo. Il solo metodo che può garantire il futuro si deve poggiare su un'integrazione europea più rafforzata e sulla riscoperta delle virtù immutabili e costanti del metodo comunitario. Questa dunque è la cronaca finanziaria dell'ultima settimana. Ma qual è il punto di vista degli operatori di mercato? Siamo davvero fuori dal rischio bancarotta? E se questa si dovesse concretizzare, quali effetti si potranno vedere? Sentiamo il parere di Pietro Giuliani, presidente e amministratore delegato di Azimut, una grande società di gestione del risparmio italiana. Diciamo che come operatori di mercato, visto la dimensione che ha la Grecia, non siamo particolarmente preoccupati per la Grecia, nel senso che la Grecia è un paese con all'incirca una decina di milioni di abitanti, che ha un PIL equivalente a quello della Lombardia. Di questi 10 milioni, 6 milioni più o meno sono localizzati intorno ad Atene, quindi la dimensione della Grecia è molto piccola, così come anche quando si parlava di Irlanda, la dimensione dell'Irlanda era piccola, così come ogni tanto si parla anche di Portogallo, quindi io sposterei il problema non tanto dalla Grecia quanto un pochettino a tutto il mondo occidentale. La farei anche più semplice, diciamo che più che di bancarotta io parlerei di crisi del mondo occidentale. Ci sono dei paesi in Occidente, quindi in Europa, negli Stati Uniti, se volete includiamo anche il Giappone, che consumano molto più di quello che producono. Di conseguenza questo modello va rivisto, che poi ce n'è qualcuno strutturalmente più debole come la Grecia, che produce molto meno degli altri e quindi ha più o meno parità di consumi, sia più facilmente in deficit, diventa un dettaglio. Allora, che poi dopo questo paese, la Grecia, sia stato finanziato da banche appartenenti ad altri paesi della Comunità Europea, le quali se la Grecia saltasse avrebbero dei problemi e quindi per essere poi sostenute ricadrebbe comunque su cittadini della Comunità Europea, questo è quello che fa parlare di effetto domino. In realtà, ripeto, c'è un paese che consuma molto più di quello che produce, ci sono delle azioni di carattere politico e quindi sociale ed economico che vanno intraprese in tutta l'Europa. Oggi stiamo parlando della Grecia, ma è un discorso che si può estendere a tutti i paesi, nessuno escluso. Oggi come oggi noi sicuramente ci siamo tenuti fuori dal debito greco, come dal debito di tanti altri paesi periferici, e guardiamo magari con maggior simpatia il debito di società solide che peraltro danno anche rendimenti leggermente maggiori, quindi questa è un po' la tendenza in atto che ovviamente non è solo nostra ma che stiamo seguendo anche noi. Noi abbiamo soluzioni di prodotto di oltre 60 prodotti, poi contandone tanti potremmo arrivare fino a quasi a 100, ma diciamo i principali sono 60. Noi ci orienteremo molto volentieri su alcuni prodotti che in questo momento sarebbero i più efficaci ed efficienti per i nostri clienti. Purtroppo invece i clienti, come tutti quanti in questo momento, terrorizzati dalla crisi greca, terrorizzati dall'instabilità dei mercati azionari e da tutto quello che sentiamo tutti i giorni alla televisione, leggiamo sui giornali o alla radio, tendono a fare le scelte molto conservative, per cui uno dei prodotti migliori che riusciamo a collocare in questo momento è un prodotto diciamo market neutral, quindi un prodotto che ha un rendimento simile a quello di un prodotto monetario, quindi rende più o meno come un bot, e il gestore può, facendo degli arbitraggi sulle azioni, dare un più di rendimento. È un prodotto che renderebbe bene con tassi più alti, con tassi così bassi è un po' mortificato, però è uno dei prodotti che va di più. E anche per questa settimana per Economia in Europa è tutto. Economia in Europa, in collaborazione con Euronet.